Soundcheck, il suono della musica, di Gegè Telesforo. Eccoci, siamo pronti dal Groove Master Studio per dare il via al soundcheck in versione natalizia, naturalmente. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo. Buonasera a Silvia Barba, auguri, buon Natale. Buonasera, auguri a te e a tutti. Sei pronta, sei operativa? Prontissima. Lo so, la sera di Santo Stefano magari avresti preferito, come in altre occasioni, trattenerti con la tua famiglia o con gli amici. E invece sono contentissima di essere qua, perché la tua scaletta è posta per me, per smaltire tutte le cose che abbiamo mangiato. Si balla. Ho fatto una scaletta assolutamente soul, perfetta. Mi sembrava adeguata allo spirito natalizio. Perfetta. Tra l'altro questa è anche la musica che si ascolta a New York, che da sempre è la nostra città preferita. E vado a presentare, anzi a ringraziare per la partecipazione, una signorina che io conosco molto bene e che praticamente conosce benissimo questo studio, visto che studia pianoforte e canto qui nel Groove Master Studio. Vale a dire la signorina Joanna, detta Jojo Telesforo. Buonasera e benvenuta. Buonasera. Come ti senti che fai la radio con papà? Bene. Bene, sei emozionata? Più o meno. Più o meno. Allora, avrai notato, mia cara Silvia, che Jojo ha una cuffia spettacolare. È bellissima, ma chi te l'ha regalata questa cuffia? Me l'ha regalata papà per Natale. Ecco, vedi, che regalo. Proprio la cuffia dei soul singer, dei musicisti, dei rapper, dei musicisti di hip hop, no? Senza di quella a New York veramente non puoi andare da nessuna parte. Appunto, ce l'ho. Sei pronta? Ce l'ha, perché anche appartiene alla nuova generazione, ma è assolutamente all'avanguardia da un punto di vista tecnologico, mia cara Silvia. Si vede, guarda, si vede. Certo, qualche volta discutiamo per faccende proprio legate ai gusti musicali. È vero. È vero. E poi scoprirai anche che, visto che tecnologicamente dentro il mondo di YouTube, hai i suoi YouTuber preferiti. Molto più di noi. Molto più di noi, senz'altro. Noi siamo indietro. Noi andiamo a vedere soltanto i filmatini musicali degli artisti che ci interessano. Per i ragazzi, visto, ti do della ragazza. Anche se ha da poco fatto 11 anni, lo posso dire? Lo puoi dire. Ecco, lo puoi dire, papà. Lo posso dire, l'ho detto, hai fatto 11 anni e quindi se noi avevamo i nostri eroi che venivano dal mondo della televisione quando eravamo dei ragazzini, tu invece i tuoi eroi li vai a capare dove? Su YouTube. Su YouTube, quindi sono YouTuber. Sì. Che significa essere un YouTuber? Allora, è una persona che fa i video divertenti la maggior parte delle volte e possono fare tipi di persone, challenge e varie cose. Challenge? Che cos'è challenge? Allora, la challenge è tipo una sfida, che ci sono vari tipi di challenge. Allora, una di queste è la challenge dei Chubby Bunny e devi mangiare un sacco di marshmallow e quando ne mangi uno devi dire un Chubby Bunny, due Chubby Bunny, tre Chubby Bunny, finché non ce la fai più poi li sputi, e quindi è un sacco divertente. Ma io lo voglio vedere. Anche io, sono anche curiosissima. La domanda che ti faccio è: a che serve tutto ciò? Per divertire. Ah, ecco, va bene. Per far ridere. Per marshmallow. Va bene, questo è il soundcheck di oggi. Allora, abbiamo i regali, fra un po' ci diamo anche i regali in diretta, mia cara Silvia. Io direi di partire col super funk. Jojo, hai mai sentito Soul Power di Maceo Parker? Ecco, te lo presento io. Soul Power! Maceo Parker, un eroe del funk, il braccio destro di James Brown in tante battaglie di musica, ancora in attività questo signore con una super band funk, molto spesso si lascia andare anche al canto negli ultimi anni, è un formidabile rapper. Maceo Parker, che energia, che grinta, ha imparato a suonare il contralto non ascoltando Charlie Parker, come molti pensano, però ha fatto il pieno di Julian Conobal Adderley, soprattutto nel periodo quello funk. Questo è il soundcheck di questa sera, come sempre Silvia Barba è con noi. Eccoci. Ti ho visto molto interessata alla faccenda dei YouTuber di Jojo, sì, perché mia figlia oggi è con noi in studio. Sì. Ecco, sì, no, lo sapevo. Interessata perché è ferratissima e mi ha detto anche che somiglio ad una YouTuber. A chi? A Greta Menchi. A Greta? Menchi. Greta Menchi, che è uno dei tuoi idoli in questo momento. Più o meno ce ne ho tanti. Ah, di youtuber? Sì. Fammi dei nomi di youtuber, stilando anche una personale classifica. Aspetta, Beh, non perdere tempo perché okay. Siamo in radio, Ok, va bene. Allora, Sofia Viscardi. Sofia Viscardi. Ah, Alberico. Poi Michele Bravi. Frank Michele Bravi è uno dei ragazzi che ha fatto X Factor. Sì, però mi piace più quando fa youtuber. Più come youtuber che come cantante, vedi? Poi Greta Menchi e Frank Matano. Frank Matano sta andando forte, pensa, comunque ragazzo dotato, grande talento, grande è partito da YouTube e adesso è diventato un personaggio televisivo, anche fa anche l'attore. Ma anche secondo te ha studiato recitazione? No. Lui recita se stesso e quindi è questo quello che piace. È bellissimo. Vabbè, tieni lì il regalino, me lo dai fra pochissimo. Io direi di tornare alla musica e di andare direttamente. Facciamo una cosa, vuoi sentire Maceo Parker oggi? Che cosa combina? Questo è già un disco di qualche anno fa, però già si sente un suono più moderno. E il brano si intitola Those Girls. Maceo Parker al Soundcheck. Soundcheck. Il suono della musica. Si intitola Dear Mr. Man, questa composizione del principe di Minneapolis, St. Paul, ovvero Prince, brano tra l'altro con la partecipazione di Maceo Parker, eroe del funk che ha aperto questa puntata del nostro Soundcheck, prova del suono di Radio 24. Allora Silvia, fammi vedere che cosa mi hai regalato, dai un po'. Tieni, che tieni cos'è? Un po'. Allora, hai fatto bene a scartarlo, ma questo è meraviglioso. Jazz Covers, Joaquin Paolo, libro bellissimo. Della dunque Biblioteca Universalis con tutte le copertine più belle della storia del jazz, ma questo è un libro fantastico, questo è bellissimo Giorgio, guarda se ti piace. Tu lo sai che noi ascoltavamo i vinili Giorgio, eh? Sì, lo so. Li hai visti? No, una collezione enorme di là? No, l'ho visto da nonno. Ah, l'hai visti da nonno, ecco qui, guarda, queste qui sono tutte le copertine, questa è la nostra amica di Bridgewater, guarda che bella copertina, no? Ce ne sono tantissime, le più belle, le più colorate, le sì, più famose. Io infatti la cosa che voglio chiedere a Jojo è, voi che utilizzate gli MP3 attraverso il telefonino, come fate a vivere senza avere questo rapporto fisico con una copertina di un disco dove ci sono scritti i titoli, tutte le informazioni? Lo vuoi proprio sapere? Sì. Con un video. Con un video, quindi... Anche in questo noi siamo risposta, veramente... Risposta precisa, ho capito, ma a te non interessa sapere chi sono per esempio i musicisti che suonano con... Chi è uno dei tuoi cantanti preferiti? Non lo so, ce n'ho tanti. Beh, dinne uno, dai. Quello Ariana Grande. Ariana Grande, non ti interessa sapere chi suona la batteria con Ariana Grande? No. No, perché questa era una delle mie cose preferite, cioè avere il vinile, certo. Ascoltare l'artista e poi andare a leggere tutti i dati di produzione, credits vari, e ancora oggi lo faccio. Anche io. Cioè comunque li leggo alcune volte. Chi sono i musicisti? Sì. Vabbè. Solo se sono scritti sotto il video di YouTube. A parte che la maggior parte dei brani che ascolti tu, Giorgio, sono fatti sul computer, ce ne sono pochi di musicisti, ci sono dei producer, dei DJ e il cantante. Sì. Ecco, è fatto così. No, però abbiamo trovato dei punti di contatto con mia figlia, abbiamo trovato degli artisti che ci piacciono, poi magari ne parliamo. Allora, scarta il mio regalino, Silvia, eccolo qui. Te è l'avevo meraviglioso, detto che... meraviglioso, perché... te l'avevo detto che era un CD. No, è un CD, però tra l'altro tuo. Quindi... È un CD mio. So, perché, cool. No, ma sai perché? Ho pensato, siccome i dischi non si vendono, tanto vale che li regalo, quelli che mi sono rimasti. Ma questo è un regalo bellissimo, perché uno si ascolta, sai, sempre un po'. Invece il disco, io ho ancora un rapporto davvero molto fisico con i dischi. Bene, ascolto in macchina e mi fa piacere leggere tutte le informazioni, foto, dove è stato registrato, qui quando. Come vedi c'è tutto. Senti, la prossima settimana però mi fai la recensione. Certamente. Ok, va bene, tanto è un disco vecchio. Va bene, allora, chi abbiamo suonato? Prince in Dear Mr. Man, però io vorrei ascoltare Prince da un album del 97, uno dei miei preferiti, che apriva con quel pezzo meraviglioso intitolato Come. Soundcheck. Il suono della musica. Appuntamento Super Soul, quello di questa sera del soundcheck di Radio 24, la voce inimitabile, il sound inimitabile di un grande maestro come Marvin Gaye in un successo intitolato Let's Get It On. Questa è la versione dal vivo, cara Silvia, credo del 1973. Lui da qualche anno aveva rotto con la Motown, che era l'etichetta, la casa discografica che lo aveva portato al successo, e anticipò quello che poi fece Prince 20 anni più tardi, è no? Quello che fece James Brown prima di lui. James Brown fu il primo artista nero a diventare indipendente dalle multinazionali e anche a produrre in prima persona la sua discografia e i suoi concerti. Un grande eroe James Brown. Ma questo era Marvin Gaye qui al Soundcheck Radio 24. Non so se mia figlia Jojo aveva qualche volta l'hai sentito, perché io in studio lo suono spesso Marvin Gaye, quindi ti sarà capitato di ascoltare anche questa canzone. E questo signore ha avuto una storia veramente molto molto triste, grandissimo successo internazionale, tanti dischi venduti, tantissimi concerti, finché un giorno va a trovare suo padre, che era un po' fuori di testa, e finì male perché papà prese la pistola e sparò al povero figliolo Marvin Gaye. Mazza, che fine. Eh sì, una brutta fine, una brutta fine. Quella di Marvin Gaye. Però spesso è successo che i grandi artisti hanno fatto delle fini drammatiche, mia cara Jojo. Va bene. Ecco, quindi spero di non diventare mai un grandissimo artista, di restare sempre un mediocre, va bene? Lo dico per te. Va bene. Va bene anche per te. Certo. Allora, chiudiamo questa prima parte del soundcheck, visto che abbiamo proposto Let's Get It On di Marvin Gaye. Direi di restare col sound di Marvin Gaye, ma con un brano non molto conosciuto del suo repertorio, però quello che dimostra anche la passione per il jazz e per il funk del grande autore. Il brano si intitola T Plays It Cool, Marvin Gaye al soundcheck di Radio 24. Poi facciamo una pausa perché arriva l'informazione e ritorniamo in invece con Stevie Wonder. Soundcheck. Il suono della musica. Eccoci puntualissimi dopo l'informazione di Radio 24 dal Groovemaster Studio per la seconda parte del soundcheck di oggi, Santo Stefano. Stiamo festeggiando anche noi suonando alcuni classici della soul music e naturalmente pronti per affrontare un'altra serata di bagordi culinari, perlomeno per noi. Credo che invece la nostra Silvia Barba andrà a una festa, no? Da cosa si vede, Jojo, che Silvia andrà a una festa? Dalle scarpe col tacco e alle calze a rete colorate. Ecco. Calze a rete colorate, quindi sei pronta per andare a ballare, secondo me, o comunque una festa, no? Beh, vediamo, poi dopo decido. Questa musica, diciamo, introduce un po' una serata di ballo. Una serata di ballo. Allora, visto che abbiamo ascoltato Maceo Parker, Marvin Gaye, direi di andare a uno dei miei artisti preferiti da sempre. Io veramente lo considero, non so più di lui dove si possa andare a finire. Certamente fra Donny Hathaway, Ray Charles e Stevie Wonder, ecco, ho raccontato già i miei gusti in fatto di vocalità. Poi ci sono tutti quelli che hanno fatto jazz, ma per quanto riguarda la soul music, credo che oltre Stevie Wonder non si possa andare. Non si può prescindere da lui, ma per tutti gli artisti della nostra generazione e anche di quelle, secondo me, anche di quelle successive. Io credo di aver comprato allora un paio di copie di Songs in the Key of Life, il doppio album meraviglioso che vinse allora tutti i premi possibili e immaginabili. Best seller per Stevie Wonder, e credo poi in seguito di aver comprato e regalato più volte dei CD di Songs in the Key of Life, e addirittura ho anche acquistato su iTunes la versione in MP3. È qualcosa una malattia. È una malattia, ma una buona malattia, una malattia sana, direi, perché non si smette mai di imparare qualcosa da lui. Perché sì, è vero. Anche nei grandi classici, e questo lo dimostra il fatto che tantissimi artisti si rifanno a lui, rifanno le sue canzoni. Certamente, il motivo c'è. Anche la sua vocalità adesso ha molti imitatori. Esatto. E la cosa che mi sorprende di Stevie Wonder è anche la sua facilità, restando sempre se stesso con la sua personalità, di calarsi anche in altri generi e in altri contesti. Ha collaborato con tutti, con musicisti di jazz, di pop, quello più scanzonato. E direi però di tornare a Songs in the Key of Life, quindi facciamo sempre un salto nella metà degli anni 70. Il brano è uno dei più belli, si intitola As, e qui c'è anche la partecipazione di un suo amico, Herbie Hancock, al Rod Spender. Soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. E vent'anni, più o meno vent'anni dopo la sua partecipazione a Songs in the Key of Life di Stevie Wonder, eccolo qui Herbie Hancock che invita il campione della Tamla Motown con la sua armonica a bocca per registrare e realizzare questa versione contemporanea di St. Louis Blues di William Christopher Handy, uno standard di jazz rivisitato poi da un cast stellare. Per esempio alla batteria c'era allora una giovane Terry Lynn Carrington. Stevie Wonder e Herbie Hancock, che coppia! Che coppia, e soprattutto si scambiano i favori anche recentemente, perché comunque ogni tanto li vedi, sai, in queste celebrazioni dove si incontrano questi grandi artisti e suonano insieme. Allora vedi Hancock con Stevie Wonder con i Daft Punk, Stevie Wonder con Prince, sai, qualche volta si sono incontrati e lui, Prince, è salito sul palco e ha suonato con lui. Queste cose che succedono fra grandi artisti americani, perché guarda, da noi soltanto da qualche anno gli artisti hanno capito che devono collaborare. Io e credo che l'evoluzione della musica, noi lo abbiamo appreso seguendo le vicende del jazz, solo così si evolve la musica, le grandi collaborazioni, i grandi incontri fra eroi e nuovi talenti e viceversa. Ognuno col suo stile, ognuno col suo modo di approcciare alla musica, che però insieme creano una magia pazzesca. Ecco, allora voglio far sentire a JoJo, noi abbiamo visto insieme un concerto di Stevie Wonder un po' di tempo fa in televisione, e ti faccio sentire una versione contemporanea di Stevie Wonder di I Wish, mia cara JoJo. Questa è la versione di un producer di disc jockey di Brooklyn, New York City, che si chiama Ahmed Sirur, uno dei miei preferiti, e questo lo ha chiamato Mega Mashup Remix di I Wish di Stevie Wonder qui al Soundcheck di Radio 24. Sei pronta? Sì. Vai. Soundcheck, il suono della musica. E questa invece è Love's in Need of Love Today, parlando sempre di Stevie Wonder, nella versione però dei meravigliosi Take Six. Che voci! Poi quando dietro c'è la produzione e anche gli arrangiamenti di Marcus Miller in grandissima forma, allora non può che venire fuori una realizzazione all'altezza del soundcheck, perché qui da noi sporniamo e proponiamo soltanto materiale di grandissima qualità, mia cara Silvia. Sì, questo è il soundcheck di Radio 24, la prova del suono. Questa sera abbiamo iniziato il nostro appuntamento facendoci raccontare da mia figlia JoJo, che per la prima volta viene qui nel Groovemaster Studio e vede il papà in azione nel fare radio, perché è un mezzo che tu non conosci, la radio. Qua non ti ho mai visto ascoltare la radio nella tua cameretta. No, infatti. Perché, per esempio? Perché, allora, c'ho l'iPad, c'ho il telefono e c'ho la TV. Ecco, e quindi, ecco perché ha un rapporto con i YouTuber, che sono i nuovi protagonisti. Quando noi eravamo ragazzini avevamo come eroi i protagonisti del piccolo schermo, che so, da Pippo Baudo a Corrado fino al nostro amico Renzo Arbore. Invece lei ha Frank Matano. Sì. C'è una bella differenza, non so se tu l'hai capita. Anzi, adesso ti voglio parlare di un altro YouTuber che al tempo stesso è un meraviglioso musicista, cantante, insomma, se la suona e se la canta. E questo ragazzo, che ha poco più di 20 anni, ha iniziato a fare queste cose quando ne aveva 15-16, si chiama Jacob Collier. Che appunto attraverso YouTube è arrivato al grande pubblico, perché producendo i suoi album, diciamo fatti in casa, perché la produzione è veramente fatta in casa, attraverso dei video su YouTube che montava, che diventavano virali, e lui ha arrangiato magnificamente dei brani anche molto famosi. E alla fine Quincy Jones se ne è accorto e ha detto: adesso facciamo le cose sul serio. Quincy Jones, JoJo, è il produttore discografico, che so, di Michael Jackson, che senz'altro conosci. Sì. Ecco, Michael Jackson. Quindi quando ti scopre un produttore così, e poi la tua carriera va in discesa, nel senso che le cose diventano facili. Ma Jacob Collier era già diventato famosissimo e oggi tutti lo vogliono e tutti lo desiderano, e ha fatto ultimamente anche dei concerti negli Stati Uniti con grande successo, a Londra per esempio invitando una delle mie cantanti preferite di oggi, che è la meravigliosa Becca Stevens. hai capito? Oh, allora, tornando a Jacob Collier e parlando quindi di Stevie Wonder, eccolo qui, Jacob Collier ci presenta Don't You Worry About a Thing, ma questa è già una versione di 3-4 anni fa, 2013, ecco, e Jacob Collier suona tutti gli strumenti e naturalmente tutte le parti vocali. Eccolo qui, Jacob Collier, Don't You Worry About a Thing di Stevie Wonder al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. E qui lo devo dire, anche la nostra Silvia Barba pensava, sì, lo pensano vero, in molti, che I Can't Help It era una composizione di Michael Jackson. E invece no, non bisogna mai fermarsi alle apparenze. Mai fermarsi alle apparenze, perché I Can't Help It fa parte del songbook di Stevie Wonder, brano poi portato al successo dal formidabile Michael Jackson. E questa invece è la versione più jazz realizzata dal giovane trombettista Theo Crocker, prodotto da Didi Bridgewater, che tra l'altro partecipa al disco del suo artista in veste di ospite. Siamo arrivati ai saluti, praticamente tutta una seconda parte dedicata a Stevie Wonder, mi sembra l'artista ideale per questa giornata di Santo Stefano. Intanto vi anticipo che noi ci risentiamo domani a partire dalle 19:15 per l'appuntamento più jazz del nostro Soundcheck, e io non posso che ringraziare Silvia Barba ancora grazie una volta per te la partecipazione. Auguri, divertiti questa sera con queste scarpe col tacco e queste calze a rete colorate. Ok, no, la saluta. Saluta Giorgio il tuo pubblico, perché oramai se i tuoi artisti preferiti sono dei youtuber, adesso tu stai per diventare una piccola stella della radio italiana. Va bene, ciao. Sei pronta. Ciao, non vede l'ora. Adesso andiamo a una festa anche noi, Giorgio, non ti preoccupare. A tutti voi ancora auguri di cuore da Giorgio Telesforo. Ci risentiamo domani e vi lascio con Every Day I Have the Blues, Tony Bennett e Stevie Wonder. Buonasera a tutti, auguri. Ciao. There's only one Stevie Wonder.